Europa 24. Ben ritrovati da Laura Bettini per questo appuntamento di Europa 24. Ricorderete, a fine luglio la Commissione ha raggiunto un'intesa sugli obiettivi di efficienza energetica da proporre al Consiglio europeo, che a fine ottobre dovrà prendere le decisioni finali sulle politiche dell'Unione per il clima e l'energia al 2030. Era il pilastro mancante della più ampia strategia ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici dell'Unione europea. Accanto al meno 40% di CO2 e al più 27% per le rinnovabili indicati all'inizio dell'anno, è arrivato anche un target del 30% in più di efficienza energetica. Un obiettivo ambizioso, ma al contempo realistico, secondo il commissario all'energia Oettinger. Sono contento di questo risultato. In questo modo l'Europa resterà leader nel risparmio energetico, si ridurrà l'importazione di combustibili fossili e comunque faremo di più con meno import. E contenta è stata anche la commissaria europea al clima, Connie Hedegaard. Una notizia naturalmente molto buona per il clima e anche una buona notizia per gli investitori e per la sicurezza energetica e l'indipendenza dell'Europa, ha commentato. Mentre l'ex presidente della Commissione, Barroso, è cosa nota, aveva in mente obiettivi più bassi, attorno al 25%, il presidente entrante, Jean-Claude Juncker, al contrario, non ha nascosto che avrebbe preferito target anche superiori. Il 30% vincolante per me è il minimo, se vogliamo essere credibili e lungimiranti. Non possiamo pretendere di essere leader nelle politiche sul clima se poi non diventiamo noi stessi più efficienti. Sui vincoli, però, la Commissione non si è esposta, rimandando la decisione al Consiglio europeo di ottobre, dove difficilmente si scenderà sotto il 30% proposto, ma altrettanto difficilmente lo si supererà, visto che bisogna fare i conti con le riserve sull'intero pacchetto, soprattutto di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, a cui spesso si agganciano Bulgaria e Romania. Insomma, al momento l'unica certezza è che entro ottobre l'accordo o il compromesso tra i 28 dovrà essere trovato e che la presidenza italiana giocherà un ruolo strategico. L'attuale entusiasmo della Commissione comunque non è condiviso al Parlamento europeo, che in una risoluzione del febbraio scorso aveva indicato un target del 40% di efficienza energetica. La Commissione, dice Peter Liese, europarlamentare popolare tedesco che siede nella Commissione Ambiente, dovrebbe avere il coraggio di porre dei target vincolanti. Penso che sia un passo nella giusta direzione. Due settimane fa pareva che la Commissione puntasse al 25%, un obiettivo niente affatto ambizioso. Il 30% è meglio. Il Parlamento però aveva chiesto il 40% e abbiamo studi scientifici che ci dicono che ne sarebbe valsa la pena. Ma in ogni caso è un inizio. Il riferimento è a un recente rapporto dell'Istituto Fraunhofer, secondo il quale è tecnicamente ed economicamente fattibile raggiungere l'obiettivo del 40% di riduzione del consumo finale di energia entro il 2030 e ridurre in questo modo l'utilizzo di gas equivalente dalle attuali importazioni dalla Russia. Secondo questa ricerca, usare il 40% in meno di energia taglierebbe le importazioni di gas del 40% e aumenterebbe l'occupazione del 3,1%. La crisi ucraina e le tensioni con la Russia, aggiunge poi il portavoce dei Verdi al Parlamento europeo, Claude Turm, non sono le nostre uniche difficoltà. We are in the middle of a big geopolitical turmoil. Siamo in un periodo di forte instabilità geopolitica, non solo con la Russia. Guardate cosa sta accadendo in Libia, in Iraq e così via. I prossimi anni saranno molto duri sul fronte del gas e del petrolio. Per me è incredibile che la Commissione europea non agisca. Un basso target di efficienza energetica significa che resteremo dipendenti. Un target del 40% invece ridurrebbe l'import di gas drasticamente, al punto che potremmo completamente eliminare le importazioni dalla Russia. Il 40% creerebbe più posti di lavoro. Il 40% consentirebbe perfino di superare il target, anche questo troppo basso, del 40% di tagli alle emissioni di CO2 deciso in gennaio. La soluzione, come dicevamo, nel Consiglio europeo di fine ottobre, Europa 24 vi dà appuntamento a domani. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.